Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. La contraffazione sottrae al nostro paese oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto, con un impatto evidentemente negativo sulle PIL e sulle eccellenze del Made in Italy. L'abitudine di comprare prodotti falsi, taroccati, come meglio li conosciamo, ci fa forse risparmiare qualche euro nell'immediato, ma va ad alimentare anche circuiti illegali e spesso criminali. I falsi mettono anche a rischio il portafoglio, nonostante abbiamo l'idea e la sensazione del risparmio immediato, perché ci ritroviamo appunto con un prodotto di qualità scadente che presto dovremo abbandonare per comprarne un altro. Ma oltre a questo può mettere a rischio anche la nostra stessa incolumità. Pensiamo ai circa 300.000 giocattoli tossici e pericolosi provenienti dalla Cina che sono stati sequestrati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza, un'operazione che ha avuto come epicentro le Marche, Macerata, nei giorni scorsi. Oggi ne parliamo a Salva Danaio. Perché? Perché intanto lunedì si sono tenuti a Milano gli Stati Generali della lotta alla contraffazione, un evento organizzato dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione con l'obiettivo di individuare una strategia comune per combattere questo fenomeno. E alla lotta alle frodi è dedicata anche l'edizione 2012 del premio Vincenzo Dona, la voce del consumatore, la voce dei consumatori, la cui consegna è prevista per domani 22 novembre a Roma. Quindi nella sostanza abbiamo avuto anche in maniera del tutto casuale un'intera settimana dedicata a questa piaga per l'economia italiana, un po' come l'evasione fiscale della quale ci siamo occupati ieri lungamente presentando ai nostri ascoltatori il redditest, il grande tema al centro anche di tutte le prime pagine dei giornali di questa mattina. Se ne è occupato anche Oscar Giannino. Parliamo di tutto questo stamattina. La contraffazione, non il redditest, quello lo lasciamo alla giornata di ieri, rispondendo anche alle vostre domande con i consigli su come riconoscere ed evitare i prodotti taroccati. Intanto, siete sicuri dell'autenticità dei prodotti che acquistate? Come fate ad averne la conferma? Oppure siete tentati anche dal prodotto falso taroccato per risparmiare, magari facendo una bella figura? Qua lo dico alle signore, perché siamo un po' tutte sempre tentate di rivolgerci alle WooCompra che troviamo in piazza per comprare la borsa firmata, naturalmente, che tanto firmata non è, ma è sicuramente appunto è falsa, e però insomma, siccome puoi comprare il Made in Italy dobbiamo spendere un po' di più, è chiaro che un po' tutti quanti abbiamo spesso la tentazione di fare un acquisto di questo tipo. Lo dico alle donne se parliamo di borse. Magari su altri settori invece il tema è che, non avendo per niente la tentazione, possiamo invece incappare in qualche situazione illegale. Mi riferisco per esempio chiaramente al settore alimentare, per cui dobbiamo fare tutte le dovute distinzioni. Questa mattina abbiamo moltissimi ospiti, ne sono molto contenta. Intanto l'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Grazie, eccoci qui, buongiorno. Poi è già collegato telefonicamente con noi, anzi lo stiamo cercando al momento, Marco, impegnatissimo al nostro centralino per mettermi in collegamento telefonico tutti gli ospiti, il dottor Giovanni Battista Orsi, responsabile ufficio normative di Assogiocattoli, settore molto delicato. E dobbiamo dare tutte le indicazioni necessarie alle famiglie in vista del Natale, perché chiaramente per accontentare i nostri bambini noi faremo di tutto, ma per la crisi che le famiglie stanno vivendo magari invece certe voci di spesa devono essere contenute, devono essere limitate, e magari si tenta anche di fare un risparmio comprando un po' meno giocattoli ai nostri bambini, oppure accontentandoli lo stesso comprando prodotti di scarsa qualità. Questo ci dispiace molto, e allora cercheremo di capire come fare, magari risparmiando, però cercando un giocattolo chiaramente che garantisca la totale incolumità ai nostri bambini. Poi ci collegheremo anche con Roberto Liscia, presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano, che è già collegato telefonicamente con noi. Dottor Liscia, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Ci sente, eccoci qua, perché su internet troviamo di tutto, per cui il commercio elettronico naturalmente ci consente grandi risparmi, ma a volte anche, come dire, il pericolo di trovare articoli che non vanno bene e che appunto sono contraffatti, anche se ci fanno risparmiare, appunto è forse, come dire, un veicolo di compravendita che rischia di far cadere più facilmente nel tranello il consumatore. E ci collegheremo alle 12.30 anche per parlare anche del tema agroalimentare con il presidente della Coldiretti, Sergio Marini, per cui stamattina vi potete sbizzarrire come meglio credete all'800240024 se volete intervenire in diretta. Se ci volete scrivere potete farlo alle 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete anche scriverci sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter siamo invece all'indirizzo @salvadanaio24. Ho dato tutti i parametri, non potete mancare l'appuntamento appunto di chiacchierare con noi su questo argomento. Contraffazione, siamo sicuri di ciò che compriamo. Allora, io direi che la prima cosa che dobbiamo fare è intanto cominciare a sentire appunto i nostri ospiti. Vorrei presentare anche il premio Vincenzo Dona che si svolge domani. Allora faccio subito una chiacchierata con l'avvocato Dona, perché siamo alla vigilia di questo appuntamento. Ho letto da qualche parte, avvocato, magari molti non ci crederanno, diciamo che la circostanza che lunedì si sia svolta la giornata degli stati generali della lotta alla contraffazione è stata effettivamente casuale, ma così è meglio per voi, domani potete intensificare ancora meglio il messaggio. È proprio così, potremmo definire quella che stiamo vivendo come la settimana nazionale della lotta alla contraffazione. È davvero una casualità, forse una buona stella ci guida, perché il premio Vincenzo Dona alla sesta edizione quest'anno c'entra proprio un tema di grandissima attualità. Tra l'altro le cronache, le citava poc'anzi, il sequestro di giocattoli nel Marchigiano ad inizio settimana. Di quest'oggi è notizia di un altro maxi sequestro di prodotti contraffatti, ci confermano che il tema è davvero di attualità. Si tratta di un fenomeno spaventoso nei suoi numeri. L'1% del PIL in Italia sembra affetto dal falso. A livello mondiale, il dato qui davvero è impressionante, tra il 7 e il 9% del commercio mondiale è commercio di prodotti contraffatti. Solo nel nostro paese spariscono 110.000 posti di lavoro ogni anno e l'Italia, questo va detto subito, è la prima vittima al mondo della contraffazione, ma anche uno dei primi produttori mondiali di contraffazione. Qualcuno dice che forse la contraffazione è nata proprio nel nostro paese, del resto a pensarci bene fino a una decina d'anni fa era una specie di eroe, il napoletano che riusciva a vendere una borsa Liberty al turista nella città campana. Evidentemente oggi il disvalore che colpisce questo fenomeno fortunatamente è più adatto alla situazione, perché, e questo dobbiamo dirlo ai consumatori, la contraffazione è a tutti gli effetti un fenomeno criminale, anzi è il secondo business criminale al mondo. Il primo è il traffico degli stupefacenti, il traffico di prodotti contraffatti è il secondo business della malavita organizzata in tutto il mondo, ma gli esperti ci dicono che la contraffazione sta scalando rapidamente questa classifica e diventerà presto il primo affare criminale al mondo. Perché? Perché è un business malavitoso, purtroppo efficiente dal punto di vista dei costi-benefici. Intendo dire che i rischi che va ad assumersi chi contrabbanda in merce contraffatta sono infinitamente più lievi rispetto a chi contrabbanda in stupefacenti. Quindi non c'è un sufficiente deterrente ancora contro questo fenomeno, chissà che non si sia parlato anche di questo, poi magari me lo ricerco nelle notizie agli stati generali appunto di lunedì. Avvocato Dona, lo dico anche agli altri nostri ospiti, vi faccio sentire questo brano di questo film. Occhiali, portachiavi, accendini, Rolex, culà. Occhiali, portachiavi, accendini, Rolex, culà. Occhiali, portachiavi, accendini, Rolex, occhiali. Che c'è un Rolex? L'imitazione non è un granché. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. E allora, da qualche tempo noi stiamo cercando un po' di rendere più digeribili i nostri argomenti ai nostri ascoltatori, magari appunto cercando qualche film che parla degli argomenti che trattiamo, così come delle canzoni. Il tema è Avvocato Dona, ho riproposto uno stralcio del film Infelici e Contenti del 92 di Neri Parenti con Renato Pozzetto e Ezio Greggi, e abbiamo riproposto appunto una situazione nella quale molti di noi saremmo incappati in spiaggia quando arriva il povero extracomunitario con i suoi prodotti appunto che sono in maniera maniera palese, appunto, contraffatti, ma tutti abbiamo la tentazione sempre di fare l'acquistino. Il fenomeno di cui lei ci parlava all'inizio, che è clamoroso per cifre, per entità, per portata, alimentato anche dal circuito alimentare, è purtroppo un fenomeno che ha queste dimensioni, anche perché se c'è un'offerta tale di prodotti contraffatti sul mercato è perché c'è anche una domanda altrettanto alta. Voi domani presenterete i risultati di un vostro sondaggio, da cui c'è evidenza di un 85% di consumatori che compra il falso per risparmiare. Non c'è dubbio che il consumatore svolga un doppio ruolo, è vittima e carnefice insieme di fronte alla contraffazione. È un problema di cultura, dovremmo spiegare cosa c'è dietro quell'acquisto apparentemente a basso costo. È una lusinga del tutto fatua, del tutto ingannevole, intanto perché quel prodotto, seppur costa molto meno dell'originale, vale molto meno di quanto l'abbiamo pagato. Pensando alle spiagge, lei citava, le borse sono il primo, in assoluto il primo prodotto contraffatto venduto, ma evidentemente una borsa, un paio di scarpe che pur costano molto meno rispetto all'originale non valgono quella cifra, e soprattutto, diciamo ai consumatori, di fronte ad un manico che ci resta nelle mani, ad un tacco che si stacca di una scarpa, che tipo di garanzia ci offre il prodotto contraffatto? Nessuna, perché non abbiamo uno scontrino, non abbiamo un negoziante al quale imputare queste responsabilità. Ma c'è anche una contraffazione che invece non ha la complicità dei consumatori, questi sono ingannati, penso al falso prodotto alimentare, penso all'installazione di pezzi di ricambio sulla mia autovettura, in quel caso il consumatore paga il vero ma gli viene fornito il falso. Ecco, quindi non è che parliamo solamente di borse, che peraltro molto spesso è un articolo alla quale possiamo anche rinunciare, il tema è che qualche volta andiamo a cercare per spendere meno anche prodotti che ci servono anche per altre finalità, il pezzo di ricambio per l'auto, e se lo mettiamo non è che poi viaggiamo in condizione di sicurezza, per cui il fenomeno è veramente largo e va affrontato a 360 gradi. Vi leggo qualche messaggio, poi comincio a sentire anche intanto Roberto Liscia, perché poi deve lasciarci un po' prima degli altri, poi andremo anche ai giocattoli in vista del Natale con Giovanni Battista Orsi di Assogiocattoli. Qualche messaggio. Gloria da Cuneo, le prometto che affronto anche questo tema nel corso della puntata. Ricordiamo la contraffazione dei farmaci, vero e proprio pericolo per la salute. Viola ci dice: viva le cose taroccate, lascio gli oggetti firmati a chi stima cosa poco da legare il proprio prezzo. Non riesco a capire questo messaggio, scusate, l'ho letto al volo, adesso cercheremo di capire perché è così, appunto, pasticciato. Paolo: ho preso un jeans firmato in un negozio nella sezione outlet. Dopo averlo indossato mi è venuto il dubbio che fosse non originale. Sono andato sul sito della firma per vedere se esistevano degli elementi per verificare l'autenticità del capo del prodotto, ma non ho trovato nulla. Sono rimasto con i miei jeans dubbiosi, appunto, ci racconta l'ascoltatore. È un tema centratissimo, Roberto Liscia, tanto che il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano adesso darà una garanzia di riconoscimento dei prodotti che circolano sul canale online. Voi state partendo con un sigillo che certifica sicurezza e affidabilità dei siti di e-commerce in particolar modo. Sì, noi come le altre associazioni europee abbiamo sviluppato un marchio di qualità che garantisce l'affidabilità dei siti. Questo sta capitando in tutti i paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, Svezia, e l'obiettivo è di avere dei criteri con i quali possiamo in qualche misura impegnare i nostri soci a fare anche un'attività di vigilanza. È chiaro che l'attività di vigilanza avviene su tutto il processo, ma quando la truffa avviene anche ai danni del venditore, questo è più difficile da rintracciare. Il danno autoalimenta, si moltiplica a dismisura nella sostanza. Sì, Liscia. Sì, devo dire che il fenomeno colpisce soprattutto l'Italia, perché il vero problema è la vendita dei prodotti negli altri paesi dove il Made in Italy è particolarmente richiesto. Da alcuni dati che abbiamo noi in Cina, dove ci sono 200 milioni di acquirenti, un acquirente su tre compra un prodotto contraffatto, spesso in maniera inconsapevole, e quando prende coscienza che quel prodotto è contraffatto, in realtà cerca di trovare il prodotto originale. Quindi c'è sicuramente un'attività che deve essere fatta a livello internazionale di vigilanza, e qui le tecnologie ci vengono in aiuto, perché è vero che la rete è un grande diffusore di informazioni e anche di opportunità criminali, ma la rete è anche un grande, enorme strumento che consente di fare la verifica di quello che avviene sulla stessa rete. Quindi la rete è in qualche misura vittima e vigile di se stessa. Pensate alla forza che hanno i consumatori attraverso i blog, attraverso i sistemi di social networking per segnalare problemi e per segnalare prodotti che sono contraffatti. Pensate alla capacità che oggi le tecnologie che possono essere messe su un capo, per esempio l'RFID, quei sistemi tecnologici che servono per tracciare il prodotto per tutta la sua vita, come possono consentire di verificare un prodotto contraffatto. E da questo punto di vista c'è un altro elemento che spesso si dimentica, che sulla rete il cliente è facilmente tracciabile, cioè l'acquisto online è un acquisto che limita sempre di più la criminalità che utilizza spesso il contante per consentire al compratore e l'acquirente di fare affari, e il contante crea anonimato, mentre l'acquisto in rete, come sappiamo tutti, per l'80% viene utilizzata la propria carta di credito o il proprio home banking, e questo naturalmente allontana spesso l'acquirente da un acquisto di contraffazione, cosciente che questo acquisto, oltre a identificarlo, lo mette in una prospettiva criminale. Quindi ci sono luci ed ombre. Ovviamente il fenomeno della globalizzazione delle imprese alimentato, rende tutto, certo, più in qualche misura aleatorio, ma il sistema è in grado di reagire con i propri anticorpi. Allora, ci sono molti ascoltatori che chiaramente polemizzano sull'argomento, ce lo aspettavamo, perché qualcuno dice, lo dice per esempio Simone D'Ancona, lo fa un po' per tutti quelli che hanno più o meno la stessa idea, ma pensate veramente che i prodotti originali valgano il prezzo che fanno pagare? Simone probabilmente ha ragione, non tutti, qualcuno assolutamente sì, perché non ci dimentichiamo quanta manodopera accurata ci sia in Italia per i prodotti tipici del nostro paese. Poi andremo all'alimentare, ma voglio dire, la moda è universalmente riconosciuto che sforni in Italia prodotti di altissima qualità, frutto del lavoro di sarti, sartini, appunto, che impiegano molte ore del loro lavoro. Poi ci sono molte aziende che delocalizzano, che naturalmente mandano le loro produzioni in Cina, e allora lì dobbiamo essere sicuri, appunto, del fatto che chiaramente il prezzo che viene stabilito per un prodotto al di fuori dei nostri confini chiaramente sia più ridimensionato. Se risparmi sulla manodopera, allora che questo beneficio si trasferisca anche sull'utente finale. Anche lì dobbiamo essere in grado, appunto, di effettuare, appunto, un riconoscimento consapevole. Ci faremo dare dei suggerimenti dai nostri interlocutori di questa mattina. 800 24 00 24, il messaggio di Viola che non riuscivo a leggere, me lo ha tradotto Marco Lombardo. Viva le cose taroccate, dice Viola, lascio gli oggetti firmati a chi si stima così poco da legare il proprio valore al prezzo di ciò che indossa. Io, Viola, non so se lei ha figli, nipoti o che cosa, io non credo che lei la veda in questo modo, se pensa che nelle mani del suo bambino possano finire delle cose tossiche, e quindi, insomma, la invito anche a riflettere in questo modo. Qua non parliamo solamente di vestiti strafirmati, insomma, che ci rendono belli ed eleganti, parliamo di tantissimi altri settori. Allora magari lasciamo da parte l'esempio delle borse, andiamo a temi più seri. 那么这个新的产品呢, 我必须要有一位很好的时装设计师, 我花了很大的价钱, 把这位, 那个, Pasquale先生, 请到我们这里来, 给我们上课, 我们现在用热烈的掌声, 欢迎 Pasquale先生 给我们上课。 E allora, che dire? Innanzitutto, per fare questo lavoro ci vuole molta pazienza. 他说像我们做这种行业的人一定要需要很多的耐心, tanto amore, 耐心跟爱心很多的爱心. E vabbè, come prima lezione 他说接下去给大家上第一节课, farò un taglio di un corpetto. Molti di voi l'avranno riconosciuto, questo era un estratto di Gomorra, la storia di Pasquale, un bravissimo sarto che per sbarcare il lunario si trova però coinvolto nei giri della camorra che controlla la contraffazione di abiti firmati. Paga caramente, anche duramente, per aver fatto questa scelta, insegnando nottetempo in una fabbrica gestita da cinesi come realizzare abiti griffati contraffatti. Quindi ci cannibalizziamo in casa nostra molto spesso. Volevo solo fare una battuta con l'avvocato Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori, per correggere il tiro. Avvocato, mi aiuti perché non ne vengo più fuori. Sulla battuta che ha fatto prima sul napoletano furbo che fa lo spiritoso dopo aver acquistato il prodotto contraffatto, perché non ne dico in quanti si stanno offendendo, non hanno esattamente colto il senso di quello che voleva dire. Mi aiuti a venirne fuori? Naturalmente mi riferivo ad una certa cinematografia, a certi film che esaltavano il ruolo del raggiratore, e l'ho collocato a Napoli semplicemente perché il pacco nasce lì storicamente, ma non ha nulla di attuale in questo senso. Voglio dire che dobbiamo riformulare i nostri schemi. Quello che era un eroe forse 10 anni fa, perché faceva della furbizia una propria arma, oggi purtroppo di fronte a un fenomeno che è criminale e che non approfitta più soltanto di chi vuol comprare la Grif, perché sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatrice che ci scriveva dicendo lascio le Grif agli altri, siamo d'accordissimo, ma da rappresentanti dei consumatori, qui non si tratta di scegliere tra Grif e non Grif. Sì, perché noi abbiamo sempre l'immagine della borsa contraffatta, ma c'è tutt'altro. Una borsa italiana di gran qualità che ha un nome sconosciuto, faccio benissimo. Il grave è comprare una borsa che è invece prodotto della contraffazione, perché per prima cosa è pericolosa per noi stessi, perché può essere tossica, può crearci delle allergie. Per seconda cosa, do dei quattrini a dei criminali che sfruttano il lavoro minorile. Il mio riferimento ovviamente a una certa iconografia, diciamo così, del passato che ci raccontava il cittadino di Napoli che truffa un turista, era semplicemente per dire che oggi quella cultura appartiene al passato e deve appartenere al passato, perché non c'è nessun eroismo nella furbizia. Perfetto, grazie, speriamo di aver rasserenato gli animi. Allora, prima di sentire, intanto si è già collegato telefonicamente con noi anche il presidente di Coldiretti, Sergio Marino, tra un po' lo sentiremo. Prima di andare ai giocattoli, tanto ormai Orsi ha aspettato un po', aspetta ancora un minutino, volevo sentire qualche riflessione dei nostri ascoltatori, perché chi la pensa come l'ascoltatrice Viola di prima ce ne sono in molti. Sentiamo Davide da Novara. Davide, buongiorno. Davide, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo aggiungere, diciamo, anche una cosa a quello che ha detto il signore precedentemente, cioè che con la contraffazione si sfrutta poi il lavoro minorile, quindi si penalizzano delle persone. Però è anche ipocrisia, secondo me, questa, perché comunque la Apple o altre marche che fanno lavorare in Cina e che poi maltrattano i dipendenti perché riversano in condizioni particolari, quella è la stessa cosa, pur essendo un prodotto originale, quindi in sostanza, ricalcando anche quello che aveva detto anche qualche ascoltatore, secondo me la contraffazione è un modo anche per capire in un certo senso qual è il prezzo reale degli oggetti, perché alcuni oggetti sono contraffatti ma sono praticamente identici, se non alcuni, come nel caso di Rolex. Ma, ma molti, per la verità, hanno il dubbio che siano gli stessi prodotti che banalmente circolano solo su canali diversi. Se la borsa, adesso faccio sempre quell'esempio là, la borsa di Gucci la compri da Gucci in Rinascente, la paghi 1.000-1.200 euro, se la compri dal venditore ambulante di Brera magari la paghi 150, ma è la stessa, perché poi i dubbi sono anche quelli. Andiamo però ai giocattoli, perché ci tengo molto. Giovanni Battista Orsi, buongiorno, al quale stamattina l'ho divertito molto, dell'associazione Atto a Giocattoli, perché gli ho raccontato che io ho ancora il mio cicciobello che mi ha comprato la mia mamma quando avevo qualcosa come 6 o 7 anni, per cui ha quasi 40 anni questo prodotto e vive ancora in perfetto stato, tra l'altro, perché la mamma mi comprò un prodotto di ottima qualità. Probabilmente però 30 anni fa forse il fenomeno della contrattazione non aveva assunto le dimensioni attuali. Ma tanto per rispondere anche a Davide, dottor Orsi, la Barbie della Mattel che compro nel centro commerciale dall'insegna riconosciuta è quella magari che mi sembra identica, che compro da un venditore ambulante, non me la voglio prendere con i venditori ambulanti, cerchiamo di capire anche gli esempi che faccio, ma magari a qualcuno viene il dubbio che comprandola lì non è la stessa, anche se è identica, identicamente riproposta appunto come quella che riteniamo sia originale nel grande centro commerciale. Come faccio a riconoscerlo? Che suggerimenti possiamo dare alle mamme preoccupate oggi ascoltando anche questa trasmissione? Innanzitutto buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Anche a lei buongiorno. Ho ascoltato con molto interesse tutti chi mi ha preceduto e condivido in pieno gli aggettivi anche utilizzati nei confronti di questo fenomeno. Ma allora, il giocattolo È un prodotto particolare, non è un prodotto di moda, è un prodotto però educativo, è un prodotto che va in mano a un pubblico sensibile che è il bambino. E il fenomeno della contraffazione, che è un fenomeno criminale, quindi utilizzo anch'io questo aggettivo, è un fenomeno criminale sia nei confronti dello Stato, perché è un'evasione fiscale, lei prima parlava di evasione fiscale e questa è un'evasione fiscale, sia contro le aziende perché depaupera tutto un patrimonio di ricerca a livello pedagogico, a livello ingegneristico del prodotto, è un grosso danno anche per il consumatore bambino. Il consumatore bambino che si deve affidare però ad un adulto nel suo acquisto. Ecco, il genitore come fa a riconoscere un prodotto contraffatto? Non è facilissimo riconoscere un prodotto contraffatto sicuramente, soprattutto nel giocattolo. Il luogo dove si compra il prodotto però ha un ruolo importante. Sicuramente il prodotto, non voglio ricitarlo per non fare pubblicità in diretta, ma il prodotto che prima lei ha nominato, comprato in un negozio specializzato di giocattoli o comunque in un negozio dove i controlli all'ingresso dei prodotti prima del sell out sono severi e da molte più garanzie ad un genitore, ad un adulto, che non comprato così in un luogo dove i controlli sicuramente sono molto, molto più limitati e molto più molto meno sensibili, insomma. Certo. Senta, diamo subito qualche suggerimento in vista del Natale. Dobbiamo anche affrontare la questione della difficoltà economica nella quale molte famiglie si trovano. Certo. Assogiocattoli ha proprio riscontrato l'anno scorso per la prima volta dopo tanti anni di attività, lei stesso mi raccontava che è in associazione da oltre 30 anni, sì. Che per la prima volta questo settore ha registrato una contrazione determinata dalla crisi. Avete la sensazione che quest'anno potrà succedere la stessa cosa? Perché siccome un bambino è difficile non accontentarlo a Natale nella richiesta che fa, certo, immagino che questa situazione possa portare effettivamente molte famiglie a fare magari acquisti più economici oppure acquisti sbagliati. Come possiamo suggerire alle famiglie di accontentare lo stesso i bambini all'insegna però di acquisti di qualità? Ma dunque il fatto di fare acquisti più economici non è un difetto, perché ci sono dei prodotti correttissimi e prodotti con il rispetto delle regole costruttive del giocattolo, anche tra giocattoli che possono essere alla portata di budget inferiori. Quindi i consigli secondo me devono stare soprattutto nella capacità di intanto di vedere che un prodotto, che un giocattolo vada bene all'età del bambino al quale viene regalato, e questo è un primo aspetto. Un altro aspetto invece molto più pratico è quello di vedere che il prodotto non abbia dei bordi taglienti, delle punte sporgenti, dei lacci o delle corde particolarmente lunghe. Quindi dei controlli di buon senso che tra l'altro hanno poco a che fare anche con la volontà di individuare se si tratti di un prodotto contraffatto o meno. In primo luogo agiamo come genitori o zii nel mio caso. Ecco. Diciamo che il giocattolo ha due aspetti. L'aspetto della contraffazione che è molto sviluppato, se una volta lo era meno, però perché il giocattolo ha un valore aggiunto inferiore a un prodotto di moda, di alta moda. Adesso invece la contraffazione si sta riversando sulla quantità dei prodotti che vengono venduti, quindi che vengono taroccati in un certo senso, e non tanto sul valore aggiunto. Quindi il grasso che cola per la contraffazione è proprio nella quantità dei prodotti. Mm-hmm. Ed è difficile per un genitore poter dire questo prodotto è taroccato oppure no, perché il prodotto... Come per i jeans di prima dell'ascoltatore. Esatto, ecco. Esatto. Il prodotto però, se un giocattolo è contraffatto, è sicuramente non sicuro, perché il primo aspetto che un contraffattore non osserva è proprio quello del contenuto tecnico, certo, del contenuto di sicurezza che il prodotto. Allora, dottor Orsi, mi devo fermare perché ho suggerimenti per chi è in viaggio, poi voglio andare assolutamente all'alimentare. Io direi che da tutta questa settimana dedicata alla lotta alla contraffazione, ma credo che sia una questione che conoscete già bene tutti quanti, esponenti di tutti i settori, così come domani magari lo suggeriamo all'avvocato Dona, il tema è quello di dire alle aziende: cercate di rendere i vostri prodotti assolutamente identificabili e riconoscibili rispetto al contraffatto. So che è stato fatto tanto, marchi, magari micromarchi nascosti da qualche parte dei prodotti, forse va fatto ancora qualcosa di più che non sia assolutamente replicabile da altri. Non vedi che è un vero affare, non perdere lo Allora, Presidente Marini, Presidente Sergio Marini di Coldiretti, buongiorno. Buongiorno. Quante volte, allora, quante volte le è capitato di parlare del parmesão brasiliano, del reggianito in Argentina, del parmesello in Belgio, del belgioioso fresh mozzarella non so in che paese, della pasta milanesa in Portogallo, come se poi tra l'altro a Milano si facesse una pasta di chissà quale qualità, niente a che vedere esatto con il sud Italia. Presidente, allora la contraffazione alimentare questa è quella che davvero ci irrita di più, un giro d'affari mondiale valutato intorno ai 60 miliardi di euro e questo sì è un fenomeno che danneggia pesantemente il Made in Italy, perché tanto mettiamola come la mettiamo, come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte. Qual è il prodotto alimentare più contraffatto e la battaglia più grande che state facendo in questo senso? Ma diciamo una cosa, che se parliamo di Italian Sounding, adesso lei faceva riferimento al prodotto Italian Sounding che non sono contraffatti, sono ecco che, esatto, di fatto è una contraffazione non illegale, mettiamola così, anche se crea un enorme danno. Tutte le nostre produzioni, le migliori, quella a denominazione di origine, pertanto i nostri formaggi, i nostri vini, i nostri salumi, l'olio, la pasta, ma direi tutto, nel mondo viene copiato, venduto come prodotto italiano che richiama l'Italia, poi prodotto italiano non è, e il danno naturalmente è enorme, sia per le nostre imprese che evidentemente si trovano così una concorrenza sleale nel mondo, sia per i consumatori che acquistano pagando qualcosa che effettivamente non vale quel prezzo, ma devo dire anche per l'immagine del paese e per il nostro futuro, perché poi ci si abitua a gusti, a qualità che sono diverse da quelle italiane e piano piano succede che l'Italian Sounding va veramente a sostituire l'italianità vera, pertanto il danno è veramente importante e devo dire che su questo piano come sistema paese potevamo anche fare qualcosa di più, perché poi il futuro dell'Italia è proprio sulla capacità di portare nel mondo la sua grande unicità e distintività nella qualità, nel legame al territorio, insomma bisogna tornare a fare gli italiani per essere competitivi nel mondo, non nel basso prezzo ma nell'alta qualità, e se su questo ci facciamo copiare veramente non abbiamo capito nulla. Certo, ma Presidente mi chiedo, rischiamo di trovare questi prodotti, perché io su questo naturalmente ho grossi dubbi, per fortuna, rischiamo di trovare anche questi prodotti contraffatti, gli alimentari, anche sui banchi della spesa di negozianti italiani, cioè anche il commerciante italiano rischia di cadere in queste truffe, quindi lì da quel punto di vista allora il consumatore che si fida ciecamente del negoziante di fiducia ovviamente come fa a difendersi? Perché la passata di pomodoro cinese etichettata come Italia, come la riconosciamo? Come italiana. È abbastanza complesso, devo dire. C'è una contraffazione, torno a dire, legale anche in Italia, cioè vendere per italiano, cioè che tre prosciutti venduti in Italia su quattro, compreso il prosciutto cotto, voglio dire, vengono venduti generalmente con immagini e nomi che richiamano l'Italia e che non sono invece italiani perché sono di importazioni, è un dato di fatto, però anche questo evidentemente è legale perché non c'è l'etichettatura obbligatoria e naturalmente chi fa business su questo si guarda bene da inserire l'origine non italiana di questo tipo di prodotto. Il consumatore, per difendersi da questo che è legale, torna a dire, quello che può fare è o avere una forte fiducia nei confronti del gestore del punto vendita che lo può informare, oppure rivolgersi a marchi di cui ha la certezza o di industrie di fiducia di cui ha la certezza, o acquistare direttamente dal produttore. Altri modi non ci sono, anche perché parliamo di fenomeni legali. In alcune altre situazioni invece i fenomeni sono fortemente illegali ma difficili da scoprire, per esempio nell'olio extravergine d'oliva. È diffuso il fenomeno di importare soprattutto da paesi del Nord Africa, sì, da Tunisia, Africa, in olio di scarsa qualità che poi viene rettificato, deodorato e venduto come extravergine italiano. Questo è un fenomeno, questo è chiaramente illegale sotto ogni profilo, e devo dire che però hanno difficoltà le autorità, o almeno avevano difficoltà fino a qualche tempo fa le autorità, a trovare, a individuare degli strumenti analitici che potessero permettere, se non quelli cartacei, che potessero permettere, come dire, di individuare questo tipo di prodotto. Il consumatore invece non può proprio niente. Oggi dal punto di vista normativo qualcosa sta cambiando, qualcosa è cambiato, c'è più sensibilità, per cui ci può essere più sicurezza, ma per il consumatore vale sempre lo stesso ragionamento. comperare o marchi di fiducia o rivolgersi diversamente ai produttori. Esattamente, Campagna Amica ha avuto anche questo obiettivo oltre al risparmio. Sì. Antonio da Napoli, in 10 secondi ci deve fare la sua riflessione perché voglio concludere con l'avvocato Dona, grazie. Sì, buongiorno. Rapidissimo, sì. Sì, due cose che mi sono accadute. Una, ho comprato un paio di scarpe della Nike in un centro Footlooker, che è un centro autorizzato della Nike, dove dopo un paio di giorni si sono completamente aperte, ecco. Le ho riportate indietro, me le hanno sostituite e anche le altre si sono aperte. Abbiamo cambiato negozio, sì Antonio, oppure... Dopo, io parlo di un Footlooker che deve essere... Sì, sì, no, ha perfettamente ragione. E poi per quanto riguarda invece i negozi appunto che hanno materiale che spacciano per originale, perché non è detto che siano solo i falsi, quelli che vendono sulla bancarella o magari quelli che sembrano piffati invece non lo sono, però nei negozi in cui c'è l'originalità, che poi io vado a spendere 200 euro un paio di scarpe, certo. Mi ritrovo con un paio di scarpe speriamo che il negozio sia stato danneggiato altrettanto quanto lei. Avvocato Dona, 2 secondi, quale messaggio vorreste che domani uscisse dal vostro premio? 5 secondi. L'intervento di Antonio è significativo perché spiega che grande delusione deriva per i consumatori dallo scoprire che imprese di marca producono anche in Cina. Quindi invoco anche, dopo la responsabilità dei consumatori nelle scelte, anche quelle delle imprese di essere serie e di essere etiche per farsi rispettare. Grazie a tutti, a domani.